Il punto di Stefano Folli. Non c'è molto da dire sul comitato dei 35 esperti incaricato di dare consigli e un contributo di competenza al Parlamento in tema di riforme istituzionali. Si tratta del meglio della cultura accademica più qualche ex parlamentare di esperienza. Il problema è che i nodi della scarsa efficienza del nostro sistema e della sua fragilità ormai li conoscono tutti e anche le soluzioni nel complesso sono abbastanza chiare. Con ogni evidenza il punto non è tecnico, bensì profondamente politico. Gli esperti, che siano 35 o 350, possono fare molto, ma non possono risolvere gli aspetti politici che da anni paralizzano ogni decisione. Questi riguardano il governo e i partiti. E intanto gli italiani aspettano.